madre vergine, cartaccia, vivo il dramma del già detto. Sconto la poca originalità causata da una tradizione che spinge al silenzio. E la mia condizione, l'impotenza di una parola scavata. Il fiato si spezza come noia, e resterò sempre un disadattato. Il mio pensiero, un lampo che è distante, tocca l'infinito, poi degenera nel verbo. Un collasso tematico, nevrosi formale, in un paese in cui l'intellettuale di profilo basso. Questioni su contenuto, la forma al mezzo, ma il discorso ormai fine a se stesso. Per riflessione il linguaggio modula il lignaggio. Il messaggio oggi autoreferenziale, sono morse della fantasia che le ha inventate, le immagini morsicate dalla mia mania. Come un'ossessione, profusione di parole senza cognizione. Non sappiamo più ascoltare nella confusione. Ci crediamo addosso e non ce ne accorgiamo. Parliamo agli altri ma vogliamo parlare a noi stessi. E recitiamo copioni scritti da terzi. Formule vuote, vocaboli sconnessi. Come preghiere che hai imparato a memoria. La parola è soltanto un brusio. Colma quel vuoto che tanto ci tormenta. Non ha più senso perché un senso non lo esprime. Ogni parola già scritta, già letta. Ripasso con la penna pagine ingiallite. Ogni mio verso appena creato è già vecchio. Ogni mio verso torna in mente appena lo sentite. È trasmesso insieme agli echi del tempo.